2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024, bentornati, questa è la nostra prima puntata nella versione estiva, solo la domenica, all'ora di pranzo e nella replica serale. Una buona domenica da Enrico Pagliarini. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e Twitter. Questa settimana il presidente dell'autorità per le comunicazioni, l'AGCOM, ha tenuto la sua relazione annuale e tra le tante cose dette e raccontate ha ribadito una cosa che era stata già detta in altre occasioni anche dalla stessa AGCOM, che c'è una preoccupante arretratezza per quanto riguarda la banda ultralarga, quella su cui ci si sta concentrando, cioè quella che dovrebbe essere implementata per il futuro, oltre i 30 megabit. A questo punto che dire, visto che già prima dell'AGCOM la stessa cosa l'avevano detta in tantissime istituzioni internazionali, ricerche private o pubbliche a livello internazionale, tanti esperti anche a 2024 hanno ribadito questo concetto. Siamo in ritardo, lo sappiamo benissimo, è chiaro anche al governo, e tra l'altro il governo il 3 marzo aveva approvato un piano per la banda ultralarga. Poi si è parlato moltissimo di un decreto, c'era tanto fermento attorno a questo decreto, a qualcuno questo decreto però non andava bene e il governo si è fermato, ha congelato tutto, ha detto no, questo decreto non si fa adesso, poi ci pensiamo dopo l'estate, in autunno vedremo che cosa fare. Quindi la situazione è abbastanza preoccupante e questo atteggiamento, lo denunciamo ancora una volta, è sicuramente deplorevole. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana. Questa settimana parleremo ampiamente del caso Hacking Team, perché ci sono da dire un sacco di cose, ma iniziamo con alcune notizie in breve. Digital News. A proposito di security, quante volte abbiamo parlato di CryptoLocker? Allora, la polizia ha individuato e denunciato 7 persone per accesso abusivo informatico, estorsione e riciclaggio. Erano responsabili di estorsioni online mediante la diffusione del virus CryptoLocker, che molti di voi lo sapranno, un virus diffuso via mail, email che hanno link o allegati che una volta aperti criptano il contenuto dei computer, tutti i dati che esistono in azienda. E quei dati sono inutilizzabili. I criminali chiedono un riscatto per fornire le chiavi per tornare in possesso di quei dati. Si paga e molto spesso si ottengono queste chiavi per sbloccare tutto. Nella rete di queste 7 persone erano caduti privati, aziende, tribunali, uffici comunali e anche alcune strutture delle diverse forze dell'ordine. Il VisLab, il laboratorio di visione dell'Università di Parma, che da qualche anno è diventato uno spin-off, è stato venduto per 30 milioni di dollari, che è una cifra piuttosto considerevole, all'americana Umbrella, una società specializzata in sistemi di compressione video ed elaborazione immagini. Anche se il nome è buffo, una società molto importante che fattura più di 3 miliardi di dollari. L'acquisizione prevede la permanenza in Italia della società con nuove assunzioni. E lo ricordiamo, grazie alla tecnologia sviluppata a Parma, il VisLab ha già realizzato un veicolo, una vera e propria automobile che guida senza pilota, perfettamente funzionante. Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che l'attacco informatico svelato in aprile e che ha colpito l'Ufficio Federale delle Risorse Umane ha permesso agli hacker di mettere le mani sui dati di circa 22 milioni di persone che sono dipendenti, ex o aspiranti dipendenti del governo federale. Il capo dell'ufficio, Catherine Arculeta, si è dimessa. Le vendite di computer al mondo si sono fermate a 66-68 milioni di unità nel secondo trimestre dell'anno, a seconda che si legga la stima di IDC, 66 milioni, o quella di Gartner, 68 milioni. Vendite calate rispetto allo stesso periodo del 2014, secondo IDC dell'11,8% e secondo Gartner del 9,5%. Lenovo è il primo come quota di mercato, il primo produttore al mondo con una quota di circa il 20%, è una media che ho fatto tra IDC e Gartner, seguito da HP 18%, Dell 14%, Apple 7,8%. Poi ci sono Acer e Asus con quote di poco inferiori al 7%. Ricordiamo che negli Stati Uniti e in Europa HP continua ad essere il numero uno. Digital News. News. Continua la riorganizzazione in Microsoft dopo l'acquisizione di Nokia. L'azienda licenzierà 7.800 persone nella divisione di telefonia mobile e prevede di registrare svalutazioni per circa 7,6 miliardi di dollari. Microsoft aveva già licenziato 18.000 persone lo scorso anno e recentemente aveva licenziato pure i due manager al vertice di quella divisione, ovvero Steven Elop e Joe Arlow. Vodafone è il primo operatore mobile in Italia a lanciare il servizio voce su rete 4G, il Voice over LTE, detto anche Volte. Finora anche chi era agganciato alla rete 4G nel momento di fare o ricevere una chiamata passava automaticamente alla rete 3G perché le chiamate su rete LTE 4G non erano abilitate. Ora invece chi è abbonato al 4G e ha un telefono abilitato a questa tecnologia può godere di una maggiore qualità audio della chiamata. Su alcuni telefoni appare proprio la scritta HD. Digital News. Abbiamo recentemente parlato di ride sharing o carpooling in città. Abbiamo parlato del servizio Let's Go. Una cosa simile l'ha iniziata a fare Google in Israele sfruttando la piattaforma e gli utenti di Waze, che sono tantissimi. Il servizio si chiama Ride With, col quale chiedere un passaggio chi fa la stessa strada. E la cosa naturalmente importante che fa notizia è che sia Google a farlo e utilizzando Waze, che ha effettivamente milioni di utenti. Ci sono due notizie che riguardano aerei elettrici, che è una delle nuove frontiere del volo, quindi non ci sono solo le automobili elettriche ma anche gli aeroplani. Questa settimana un prototipo della Airbus, o Airbus come dicono i francesi visto che ha sede in Francia, si chiama eFan, Electric Fan, quindi motore elettrico, è un piccolo aereo a due posti alimentato a batterie, ha effettuato la prima trasvolata della Manica in circa 40 minuti. L'aereo potrebbe entrare in servizio fra il 2017 e il 2018. Questa piccola missione arriva pochi giorni dopo l'impresa di Solar Impulse, l'aereo svizzero che funziona ad energia solare grazie ai grandi pannelli, alle grandi ali ricoperte di pannelli fotovoltaici, che è arrivato alle Hawaii dal Giappone, quindi un lungo viaggio, 120 ore senza sosta, ed è pronto per continuare la circumnavigazione del globo. L'obiettivo appunto di Solar Impulse è dimostrare che è possibile equipaggiare un aeroplano con soli pannelli fotovoltaici e con la sola energia elettrica farlo volare attorno al mondo. Una impresa molto molto audace, molto interessante per il futuro, oltre che della tecnologia elettrica, anche del volo e dell'aeronautica. 2024. Il business dell'hacking, cioè di chi attacca un sistema, ci sono anche gli hacker che attaccano per fini lodevoli, ma ci sono anche i malicious hacker che invece attaccano per un business oscuro, per far soldi, per estorcere denaro, per truffare, per copiare. Il business dell'hacking è oscuro e profondo, dicono gli esperti, è difficile capire in questo settore chi siano i buoni e chi siano i cattivi, non bisogna fidarsi di nessuno. All'inizio di questa settimana Hacking Team, che è una società di sicurezza informatica di Milano, uno dei principali fornitori al mondo di software spia per servizi di intelligence e forze di polizia, è stato attaccato e migliaia di documenti sono finiti online e pubblicati su WikiLeaks. Si parla di 1 milione di documenti, email, ci sono anche alcune email che mi sono scambiato con uno dei fondatori, David Vincenzetti, per preparare un'intervista che poi non si è fatta, si era fatta qualche anno prima. Sono finiti online 400 giga di dati e soprattutto, cosa molto grave, il codice sorgente del software, che a questo punto è compromesso ed è fuori controllo. Per stessa ammissione della società, terroristi, estorsori e altre persone che hanno cattive intenzioni possono implementare questa tecnologia a volontà. Crediamo, hanno scritto le persone della società in un comunicato ufficiale questa settimana, crediamo sia una situazione estremamente pericolosa e ormai evidente che esiste una grave minaccia. Ma chi che cosa fa di preciso questa azienda e come funziona questa tecnologia molto sofisticata. Così lo spiegava proprio a 2024 nella prima intervista che abbiamo realizzato, la seconda, quella dello scambio di mail, poi non c'è stata, lo spiegava Davide Vincenzetti in un'intervista del 2011. La nuova frontiera dell'intelligence, la nuova frontiera del fare intercettazioni non è fare quella che si chiama passive monitoring, cioè intercettazione passiva, ascolto, sniffo il canale, sia esso una rete, sia esso una comunicazione telefonica, on air, eccetera, bensì la nuova frontiera è quella di andare direttamente sul device che l'utente sta utilizzando. Quindi questo... o il computer oppure il telefonino, smartphone, il tablet, eccetera. Esattamente. La ragione per cui facciamo questo, la ragione per cui si farà sempre più questo, è perché prima di tutto la crittografia verrà sempre più usata, e quindi a intercettare i dati, io li posso intercettare ma poi non sono intellegibili, prima ragione. Seconda ragione, perché ci sono alcuni dati che non lasciano mai il device. Per esempio, io ho un iPhone con su una rubrica e delle foto e dei documenti interni al telefono che non trasmetto, che sono interni al telefono ma non ho intenzione di mandare via la mia rubrica via rete. Se non entro nel device non posso prenderli questi dati. E la terza ragione per cui è importantissimo andare nel device e non serve fare monitoring passivo, è che se il target che sto monitorando oggi in Italia, lo sto monitorando con il sistema tradizionale, si sposta e va in Giappone, esce dal mio, tra virgolette, monitoring domain, quindi è troppo lontano. La mia zona dove posso controllare le comunicazioni. Certamente. Domanda banale, come fate ad andare, cioè facciamo, adesso io qua ho un BlackBerry, ma questo vale, sembra per voi riuscite ad attaccare BlackBerry, Android, iOS, quindi iPhone, Symbian, Nokia, insomma tutti i sistemi operativi, tutti, esatto, i device. Ma come fate a installare la vostra sonda sul mio telefono e quindi captare tutto quello che accade sul mio telefono? È molto facile, ci sono diversi sistemi, diverse tecnologie, noi li chiamiamo internamente vettori di infezione. Io posso, per esempio, questo telefono è qui in mezzo a noi sul tavolo, questo BlackBerry, posso infettarlo semplicemente mandandogli un SMS speciale, che è un SMS particolarmente costruito in una maniera particolare, che è invisibile al telefono e all'utente, e questo SMS scatena il caricamento di un payload, cioè di un modulo di infezione. E quindi da lì poi voi avete il controllo. E da lì ho il controllo totale di tutto quello che è sul telefono, di qualunque chiamata, di qualunque attività che viene fatta con quello che adesso è un telefono, lo chiamano telefono, domani sarà un computer a tutti gli effetti. Sì, e io non mi accorgo di nulla? Assolutamente no. Abbiamo detto che si trattava di una tecnologia molto sofisticata, e in effetti il successo commerciale di Hacking Team è dovuto proprio al fatto che era anche molto efficace. Hacking Team ha venduto, vende a decine di servizi segreti, polizie in tutto il mondo, in moltissimi paesi del mondo, anche in Italia. Sì, abbiamo quasi saturato il mercato molti anni fa, è per questo che adesso stiamo vendendo all'estero, ma in Italia lo si usa come il nostro sistema. E questa è sempre una delle dichiarazioni fatte da David Vincenzetti in questa intervista del 2011 a 2024, in cui raccontava come funziona questa tecnologia. Una tecnologia che naturalmente può essere paragonata in un qualche modo ad un'arma, e quindi può essere venduta solo a chi ha l'autorizzazione, l'autorità per fare un certo tipo di indagine. Infatti noi facciamo sicurezza, IT security offensiva, cioè noi vendiamo di fatto degli strumenti che servono per fare indagini informatiche, e questi strumenti sono molto efficaci, molto così, funzionano davvero, e per questa ragione noi li vendiamo esclusivamente alle entità governative autorizzate a fare già indagini per conto loro, insomma. In questi giorni ho parlato con David Vincenzetti, non è stato possibile purtroppo intervistarlo, è stato molto gentile al telefono, ma la scelta dell'azienda è di far parlare in questi giorni, sicuramente molto difficili per Hacking Team, solo il portavoce ufficiale Eric Rabe, che parla in inglese perché essendo americano non parla un buon italiano. L'abbiamo intervistato e queste sono le risposte su quello che è accaduto in questi giorni. We are the victims of a major crime. Our software has been stolen from us and it's been posted on the internet by somebody who did that. Siamo vittima di un grande crimine. Qualcuno ha rubato il software e lo ha messo su internet. Abbiamo perso il controllo del software così come una banca ha perso il controllo dei soldi quando c'è una rapina. We are the victims of a crime here. Eric Rabe ci ha detto che Hacking Team si è rivolto alle forze dell'ordine, che c'è una indagine in corso che dovrà cercare di capire chi è il responsabile. Fra le voci che ho raccolto in settimana, ho fatto molte chiacchiere con alcuni esperti di sicurezza informatica, si fanno le ipotesi più diverse. C'è chi sostiene possano essere stati attivisti online che difendono i diritti umani su internet, perché Hacking Team ha venduto tecnologia anche a dittature o stati poco democratici. Su questo si è dibattuto a lungo, già da tempo ci sono state delle sorte di indagini, sono stati svelati alcuni dettagli su alcuni stati, su alcune intelligence che usavano questa tecnologia da parte di organizzazioni non governative che fanno questo tipo di indagini. Poi c'è chi pensa possono essere stati servizi segreti di qualche stato a cui questa tecnologia o anche i rapporti che Hacking Team aveva con alcuni stati non andavano molto bene. Oppure ci potrebbe essere la pista interna. In effetti c'è chi dice non è possibile che tanto materiale esca dai server di un'azienda senza che qualcuno da dentro collabori. Tutto questo naturalmente affidato all'indagine, vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Ma abbiamo chiesto anche ad Eric Rabe che cosa si aspettano possa accadere a questo punto. Well, we don't know what they might do with it, but the criminals who stole this technology from us and put it on the internet have made it available to anybody who wants to try to use it and who has the technical ability to do so. Guardi, non sappiamo cosa ci possano fare, ma certamente i criminali che hanno sottratto il software e lo hanno messo su internet lo hanno messo a disposizione di tutti coloro che hanno le capacità tecniche di usarlo. The antivirus companies, I'm sure, are very hard at work to make this software discoverable. Direi che le società di antivirus stiano lavorando sodo per far sì che sia possibile scoprire questo software, ma non tutti usano gli antivirus, non tutti li usano bene e quindi penso che ci sia un problema molto importante. Ma senta, come si spiega il fatto che una società che si occupa di sicurezza, che si chiama Hacking Team, sia stata essa stessa hackerata? I think the reality is anybody could be hacked if the hacker is determined enough, sophisticated enough and takes enough time. Guardi, penso che la realtà sia che tutti possano essere hackerati se chi attacca è sufficientemente determinato, sofisticato e si prende il tempo necessario. US government, for example, being hacked. Abbiamo visto che anche il governo americano è stato hackerato, o grandi corporation come Sony o JP Morgan, che hanno molti più soldi e molte più risorse di quelle che abbiamo noi. Much more money and much more resources than we do to protect themselves. Questa era la voce di Eric Rabe, portavoce di Hacking Team. Abbiamo fatto, tra le tante chiacchierate, vi propongo quella che ho fatto con Matteo Flora per parlare anche delle conseguenze che si possono immaginare nell'immediato di quello che è successo. Matteo Flora è un esperto di sicurezza informatica, non solo, è fondatore di The Fool, si occupa di tante cose, ma sicuramente questo, l'aspetto della sicurezza informatica, è uno dei più importanti. Ricordiamo che il software principale di cui stiamo parlando si chiama Remote Control System, RCS, o come nome commerciale Da Vinci. Gli scenari sono differenti. Allora, il primo, il più semplice forse da capire, è che a questo punto, da qui alle prossime ore, gli antivirus inizieranno a prendere questi codici sorgenti che sono trapelati e a calcolare quelle che vengono chiamate le firme di questi software. Cioè, in parole povere, gli antivirus inizieranno a scoprire se io ho montato sul mio computer o sul mio cellulare RCS, Da Vinci, Galileo, una delle sonde o meno. Questa cosa di per sé è già estremamente pericolosa. Perché? Perché io mi troverò ad avere una serie di quelli che vengono definiti comunemente bersagli, cioè una serie di persone che erano sotto intercettazione, che di punto in bianco scoprono di essere state sotto intercettazione. Certo, perché nella intercettazione classica c'è qualcuno che ascolta le mie comunicazioni, ma le ascolta nel cloud, cioè nelle centrali telefoniche, giusto per essere semplici, e quindi io non mi accorgo di fatto di nulla. In questo caso è il mio smartphone o il mio computer ad avere un software che me lo ha infettato, che è il veicolo dell'intercettazione, quindi in questo caso mi posso accorgere. Diciamo però che molti sullo smartphone non hanno un antivirus. Molti no, ma sul computer sì. Assomiglia, diciamo, che quello che in Italia viene chiamato captatore informatico, cioè questo tipo, questa tipologia di contenuti, assomiglia un po' a una cimice. Quindi io, se a un certo punto faccio bonificare il mio ufficio e trovo delle cimici, a questo punto so che qualcuno mi sta intercettando. Poi c'è un altro problema, che non solo sono uscite a questo punto le firme delle cimici e come trovarle, ma è uscito un database che conteneva una cimice diversa, utilizziamo ancora questo modo di dire, per ciascuno dei clienti di Hacking Team. Quindi la cimice del Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi i servizi italiani, era diverso dalla cimice della DEA americana, era diversa dalla cimice dei carabinieri. Quindi in questo caso io non solo mi trovo qual è la cimice, ma mi trovo anche, probabilmente, qual è la tipologia di persona che mi ha installato la cimice, e quindi non solo so che sono sotto indagine della Guardia di Finanza, ma posso sapere di essere sotto indagine dei servizi, e lì si aprono una serie di cose di scenari estremamente interessanti, tipo non sappiamo se tutte le realtà che avevano scelto dei bersagli avessero o meno dei bersagli, mettiamola così, kosher, reali, legali. Quindi cosa succede se qualcuno si trova ora una cimice? Beh, se è un criminale ovviamente saprà che tutto quello che ha detto fino adesso è stato intercettato o potrebbe essere stato intercettato. Non solo quello che ha detto, non solo anche quello che ha scritto, quello che ha fatto, sì, le sue azioni. Però cambierà probabilmente i suoi piani, si potrà nascondere, cambierà telefono, cambierà modalità di comunicazione, cambierà computer, cioè starà molto più attento. Quindi le indagini in corso probabilmente per una grande parte sono da considerarsi come bucate tutte. Non solo, non sappiamo, siccome sono usciti anche tutti i dati di varie macchine virtuali, di vari server su cui erano installate i sistemi di, a questo punto, ascolto, i command and control, dove venivano controllati i bersagli, non possiamo avere la sicurezza che qualcuno nelle prime ore in cui sono usciti i dati non sia andato ad accedere a questo tipo di macchine, e quindi magari non si sia scaricato l'elenco di tutti i bersagli. Ah, quindi vuoi dire un, chiamiamolo hacker, malicious hacker, un criminale, o chi, insomma, qualsiasi altro termine, potrebbe essere entrato nei server dei servizi segreti di un paese che era e che è cliente di Hacking Team, e è andato a vedere tutte le persone che erano sotto intercettazione. Beh, sono usciti di sicuro un bel po' di indirizzi internet di questi server, un po' di dati che potevano consentire con facilità, no, ma con molta più facilità di prima, l'individuazione e probabilmente il testing. Sono usciti i sorgenti, quindi magari si poteva vedere anche cosa aspettarsi su quei server. Quindi è una possibilità, magari remota, ma non così tanto remota. Certo, non è un caso che i servizi segreti abbiano detto a poche ore da questo incidente che stanno verificando quello che è successo, se informazioni sono uscite dal controllo e eventualmente quali possono essere le conseguenze. Beh, certo, in realtà poi non come la polizia ma come i servizi, queste cose possono avere un impatto anche sulla sicurezza nazionale. Beh, anche per le indagini di polizia, pensiamo alle indagini di mafia. Ora, non solo. A questo punto, come dice anche Hacking Team stessa, noi abbiamo, come viene detto, in the wild, cioè al libero, il codice di tutta la suite di Da Vinci, il che significa, di RCS in generale, a seconda del modello, il che significa che c'è qualcuno ora in grado di replicare l'infrastruttura che loro avevano creato e di crearne una parallela, un'architettura pirata dello stesso tipo di prodotto. Ovvio, alcune cose non potranno essere utilizzate, tipo le vulnerabilità che sono state trovate e che non erano prima state divulgate, come quella per Flash che è stata risolta nelle ultime ore, non saranno più utilizzabili, ma ce ne sono tante in vendita da individui più o meno senza scrupoli. Questo fa sì che sia possibile modificare quello che era prima il vettore per fare in modo di aggiungere altre funzionalità. In pratica abbiamo uno dei sistemi più sofisticati al mondo per la gestione di potenzialmente migliaia di intercettazioni parallele, disponibile a chiunque abbia quel minimo di capacità per poterlo installare, con anche tutti i manuali di riferimento e la documentazione degli sviluppatori. Cioè, un po' come se fosse fuggita dal controllo un'arma molto potente, un carro armato, che però in questo caso può essere replicato n volte e sia a disposizione quasi di chiunque. Io il carro armato non lo so guidare, però se uno lo sa guidare... Beh sì, ci sono un po' di problemi. Ci sono delle differenze, però per far capire insomma qual è anche il pericolo che ci può essere. Diciamo che il dibattito è molto acceso nella comunità internazionale su due fronti. Il primo, se sia o non sia lecito usare questi che sono definiti captatori informatici, cioè queste tecnologie in grado di carpire informazioni agendo sul computer del bersaglio. Sì, diciamo che attualmente tutto è legale. Attualmente diciamo che si opera all'interno di un regime di legalità, dato principalmente dal fatto che non esistano ancora delle norme estremamente precise su cosa possono o non possono fare i captatori. Però ci sono anche qua dei problemi. Sì, comunque specifichiamo, scusa se ti interrompo, è legale se lo fanno organi dello Stato preposti, quindi servizi segreti, magistratura, insomma, eccetera. Teoricamente è legale se portato avanti dalla polizia giudiziaria o da chi ne ha lecitamente la possibilità sancita dalla legge. Però cosa succede? Ci sono delle cose molto peculiari. Cosa succede se mi mandi un PDF che ha all'interno questo Trojan, questo captatore informatico, e io lo giro a tutti i miei amici perché è una cosa interessante? Cosa fai? Installi il captatore su decine o centinaia di computer, e questi computer come vengono gestiti? Dove? Da chi? Chi mi dice che non vengono poi, che vengono archiviati o non archiviati? E cosa succede se alla fine delle indagini passi e mi pulisci i computer o meno? E cosa succede adesso che sono usciti i codici? Siamo sicuri che non sia possibile per qualcun altro entrare e recuperare queste informazioni? Credo che sia abbastanza impossibile dire che siamo perfettamente sicuri. Dall'altra parte c'è invece il problema di quello che viene definito normalmente il dual use, cioè sono armi o non sono armi questa tipologia di software digitali. Attualmente anche in quell'ambito c'è un po' di confusione normativa, voluta o non voluta, questo non sono in grado di definirlo, però ancora non c'è una normativa precisa che definisca. Ci sono un paio di bozze, tra l'altro, che danno forse più problemi che non soluzioni per le formulazioni che adesso sono state scritte, però anche lì è qualcosa da normare, altrimenti si gioca sempre a quel limite della legalità per cui basta che io non vendo direttamente ad un paese, ma ho qualcun altro che lecitamente può comprare, poi per altri giochi strani lecitamente può vendere, e mi trovo in una condizione privilegiata di nuocere anche con paesi sportivamente democratici. Senti, ti faccio una domanda sull'attacco, perché Hacking Team dice tutti possono essere attaccati, anche noi siamo stati attaccati, come addirittura il governo degli Stati Uniti, quindi se è stato attaccato il governo degli Stati Uniti figuriamoci noi. Ti torna questo ragionamento? Beh, sfortunatamente è vero, non esiste la possibilità matematica di dire non siamo stati attaccati, come non esiste la possibilità matematica di dire non possono uscire informazioni. Sappiamo che il Fort Knox del digitale, l'NSA americana, è stata dall'NSA americana sono stati trafugati i dati da Snowden, quindi è vero che non esiste la certezza matematica, esiste un livello di paranoia più o meno crescente che normalmente dovrebbe essere più basso, in realtà con rischio meno elevato, e probabilmente dovrebbe essere a livello estremamente paranoico per realtà come Hacking Team, dove il nemico che si trova a fronteggiare è palesemente un nemico estremamente competente. Senti. E questa era la voce di Matteo Flora, esperto di sicurezza informatica. Concludiamo questa puntata di 2024 che abbiamo ampiamente dedicato al caso Hacking Team. Trovate tutte le nostre interviste, anche questa chiacchierata con Matteo Flora, in versione integrale nella nostra versione podcast, che è già disponibile sul nostro sito internet. Potete abbonarvi gratuitamente anche tramite le principali piattaforme che hanno una app per il vostro smartphone. Andate sugli store di app, cercate la parola podcast e da lì potete scaricare tutte le applicazioni che vi permettono di gestire il podcast anche 2024. Tra poco le notizie di GR24, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. 2024.